principi per poterci lavorare direttamente? No, io proprio i miei schemi. Ho i miei schemi con i miei telai, con gli chassis appunto progettati da me, serigrafati da me. Tutti gli schemi sono miei, il principio sicuramente Williams un esempio non è mio, esisteva, ma le elaborazioni sono tutte mie, sono tutti brevettati, ho test match per valvole digitali, faccio anche di quegli strumenti lì, di parte in genere. Comunque per quanto riguarda il settore BF sia valvole, MOSFET, BJT, GBT, eccetera, eccetera, tutta progettazione mia. Sono appoggiato con Alberto Maltesi, per Luigi Manzullo, sono delle persone appunto dei progettisti e addirittura qualcuno anche delle fabbriche di apparati audio che mi aiutano appunto a venderli, eccetera. Ho capito. Praticamente fai bassa frequenza ad alta, a bassissima frequenza e anche ad altissima frequenza, cioè fai dei finali di una certa potenza e anche di bassa frequenza, che so io, per apparati, dice trasmissione, eccetera, a parte tutti gli altri discorsi. Allora, per quanto riguarda i finali di potenza RF non supero solitamente il kilowatt e mezzo 2, non mi interessa proprio anche perché non me ne richiedo. E poi spazio dai 0 sino ai 50 massimo. Non è capito, quello non è che sia un campo dove ho posto molto interesse, dove appunto ripongo più interesse è nel campo BF, dove sto approfondendo gli studi, appunto anche per il piano, il public address, come li dicono, finali di potenza appunto, anche per gruppi musicali, dipende da chi te li chiede, anche finali per chitarra, molto belli. Ok, ho capito, sì, è interessante. Molto molto bene, e vabbè, insomma già diciamo che ti succede la testa con tutte queste cose qua, perché ce ne vuole di testa, me ne rendo conto, è così già, vabbè. Molto molto bene, dato te che hai la voglia di fare certe cose, perché non è semplice, me ne rendo conto che non è semplice. Dipende dall'impostazione, se sei ordinato con la mente, se hai i tuoi schemi mentali, se sai usare i programmi di progettazione. Premessa, io realizzo circuiti stampati a tutt'andare, se non ce la faccio io, se sono molto sottili come piste, li mando da un amico che me li fa laser e compagnia bella, però io progetto interamente il circuito in questione, faccio frequenzimetri digitalizzati, preprogrammati con PIC, eccetera, eccetera, eccetera, per qualsiasi tipo di apparato, non ci sono problemi. Oppure contattori per macchinari, insomma, sai, le solite cose, sai, i contapezzi delle macchine, quelli digitalizzati, anche quelli, mi chiedono cose strane su via, negli macchinari lo sai, no? Che ti possono fare richieste strane. Ok, sì, ho capito, cioè, insomma, diciamo che hai tutta una gamma completa di progettazione, eccetera, eccetera, per quanto serve, va bene, molto, molto bene, ok. Una cosa, tu ancora non sei diventato radioamatore, non ti è mai ballato per la mente di avere la patente, non te ne frega niente, vero? Allora, non mi è mai venuto in testa di prendere la macchina e andare a casa di una persona che dico io e praticamente portare giù la patente. Dovrei praticamente presentare gli studi e ne uscirei così, anche se mi avevano bruciato 2 anni, perché io ho praticamente studiato all'Istituto di Storia di Tecnica, ho pagato di tasca, perché ho pagato di tasca, poi mi hanno bruciato 2 anni all'industriale, e lì è che praticamente sono stato fottuto, a livello statale. Ho capito già. Sì, no, è una domanda che ti ho voluto fare, ho detto, ma sai, già mi hai preparato che è un mestiere, eccetera, non ho mai pensato di avere la patente del radioamatore, a differenza di altri che hanno fatto solo esclusivamente domanda senza aver avuto bisogno di fare esami, eccetera, perché naturalmente anche loro l'hanno studiato da bambina e è arrivata la patente così a casa direttamente, senza nemmeno presentarsi. Bene, vabbè, ognuno è interessato a quello che crede, non ci sono dubbi. Sì, no. Ma non è fondamentale la patente radioamatoriale giù. Sì, ho intenzione di prendermela, ma prima devo sistemare cose molto più importanti tipo ad esempio, che ne so, ho intenzione di comprarmi una casa di una certa dimensione, perché voglio farci un laboratorio lì, insomma ci sono 10.000 cose che vorrei fare prima, se Dio vuole, se no pazienza, giù, è un periodo brutto e lo sto affrontando così come viene. Capito, avevo intenzione di ingaggiare 3-4 giovanotti e iniziare a riprendere le ricerche appunto in elettronica e soprattutto continuare nel campo degli elettromedicali e dell'informatica e iniziare a dividere un po' i compiti, perché a me sinceramente, anche se non mi pesa, però non è molto produttivo da solo. Beh, indubbiamente, non ho nessun dubbio, questo sia vero. Adesso solo più di quell'altro non si può fare, ci vuole sempre la collaborazione di altre persone, l'idea sarebbe buona, però bisogna fare i conti anche con i momenti che stiamo vivendo, perché oggi il personale comporta spese, insomma non c'è bisogno di mettere fini, già mi capisci perfettamente ciò che voglio dire. E con la crisi di lavoro che c'è in giro non è certamente facile oggi aprire un'attività, o meglio ingrandire un'attività ad un certo livello. Sì, e questo è il problema. E questo è il problema. Io ho la costante intenzione di ingaggiare 3-4 ragazzi, ma che abbiano le palle, però non che mi facciano casino, perché la mia cliente era abituata, che adesso ti chiamano da Costa Smeralda, c'è un macchinario di 30.000 euro, non è che va lì e fai un danno di altri 20.000, no? Allora li ammazzano lì dentro stesso, gli chiudono la testa mezzo dentro e mezzo fuori, come fanno con i gatti, mi con i gatti ladri. Quindi, è dura. Non so quante persone ci possono essere in grado di fare lavori sulla certe macchine lì, non lo so, guarda. Perché sì, vabbè, ci saranno sicuramente bravi tecnici, però non lo so, diciamo che ci vuole fortuna anche a trovarla, a meno che non li conosci già di persona, allora diciamo che ti potresti anche fidare, ma diversamente se non li conosci, li prendi così e gli dai un incarico del genere, non so cosa può succedere. Cosa succede? Succede che si fanno anche del male. Cosa succede? Succede che fanno un anno, è inutile, io ho paura. Proprio perché ho paura, perché io conosco le procedure, ma non posso seguirli tutti, che se ne sbucino giù. Anche perché poi, se Dio vuole che me ne vada in pensione, ma ti pensi che sia dietro di loro? Io ho voluto dire, come la baracca è la vostra, ma andate per avanti. Non so, anche per quello bisogna essere tagliati, non è detto che uno possa essere un bravo tecnico o un bravo operaio o un bravo commerciante che riesca a portare avanti l'attività, bisogna essere tagliati anche per quello, anzi soprattutto per quello. Guarda, io collaboro con un amico che appunto anche lui è un perito elettrotecnico, ma non ci mette mai mano. Appunto lui è diventato un rivenditore, perché gli piace quello, da piccolino l'aveva preso in dossi, era diplomato, tutto quanto, nella parte fiscale lavora di una bomba, molto bravo nel vendere, eccetera, eccetera, però per le macchine appunto ha delegato completamente a me il lavoro, infatti Torino, Milano, Roma sono tutti esclusi tecnici in Sardegna, ma ormai me li faccio io con lui, tutti questi generi di apparati, tutto lì. Capito giù. Per dirti un'altra, è con un diplomato che non ci prova, anche perché ci vuole un po' di coraggio, insomma nei solarium c'è parecchia tensione, stiamo parlando di 70 neon che si accendono, ventole computerizzate, una persona che entra dentro, non gli deve succedere niente perché lì entra nuda, la donna è s'abbronza, insomma giù, cose un po' delicate. Lo so, e purtroppo, ripeto, non è facile trovare un tecnico che possa fare questo genere di lavori. Poi tornando al discorso di aprire un'attività e lavorare per conto proprio, come tu hai detto poc'anzi, non è certamente la stessa cosa, non è facile, dice io sono un bravo operaio oppure un bravo tecnico e apro un'attività e la porto avanti da solo, no, non è detto che tu sia un bravo tecnico, un bravo operaio che riesci poi a portare avanti l'attività nella maniera più assoluta, bisogna essere dotati anche di certe cose per poter avanti un'attività. Io ho conosciuto tante persone, ad esempio nel mio settore, falegnami, bravi, sono falegnami che nel giro di brevissimo tempo vanno dovuto chiudere perché perché bravo il falegname, d'accordo, però ho delle dipendenze degli altri, non sono capace di lavorare per conto proprio, ecco qual è la differenza, già. No, io addirittura anche nell'impiantistica lì controllo in dettaglio tutto il, diciamo così, tutto l'ambaranam per quanto riguarda le firme, preparo tutto, schemi di filari se ci vogliono, insomma, preparo i documenti compilati, non fatto che arriva l'ingegnere e firma, oppure chi me lo vuole firmare me lo firma, non ci sono problemi, dato ormai riconosce un sacco di gente, quindi preparo tutto, proprio a legge 37 dell'8, conosco tutto, insomma, nei minimi dettagli riesco a arrangiarmi anche lì, anche nel fatturato, insomma, arrangio un po'. Poi, giustamente, se possiamo scappare, scappiamo, se non possiamo scappare, non scappiamo più. Qualche volta i soldini, qualche soldino ce lo regalano, nei macchinari, sai, in cosa, quando fai gli interventi veloci, molte volte ti mettono in mano 500 euro gratuite, ahimè. Ok, già, sì, ma è così, in effetti è così. Vediamo un po' chi è che vuole entrare, c'è qualcuno che vuole entrare? Allora, dottore, che mi la sirena, intanto non passa. Capito, già, il discorso è quello, come dottore sta dicendo, io ad esempio, la mia attività, sono 44 anni che sto lavorando in proprio. Colleghi, il mio stesso mestiere, eccetera, bravi anche come operai, hanno aperto in un brevissimo tempo, questo uno o due anni ho dovuto abbandonare perché non sono riuscito ad andare avanti e questo è molto importante, più di qua, perché se sei un bravo datore di lavoro ti prendi un operaio e lui che ti aiuta a andare avanti, mentre invece se sei un bravo operaio, sei un cattivo empresario, non ce n'è da fare, è solo questione del tempo e poi chiudi e basta. Sì, ma lo penso anch'io, uguale come lo pensi tu. Penso anch'io così, siamo della stessa pasta, Giulio. Sinché la mia ditta propria, io ormai mi chiamano la maggior parte delle aziende e dipendo praticamente da loro, se proprio la vogliamo vedere così, però io preparo tutto. Termino una cosa, non me ne fanno documenti loro, loro mettono solo la firma, perché? Perché quello lì ho autorizzato a firmare in termini legali, altrimenti avrei firmato io con documenti pronti, ma figurati se ho parlato una fattura di gestire un'attività, il problema non è quello, il problema sai cos'è più oggi modifiche, cose, malassorti, radio, buffer, lampo, dedotto, baggio, dedotto. Beh certo, sì, tutta una serie di cose, soprattutto il fatto amministrativo è un po' complicato, sì, non sono tu mi dirai, ma bisogna rivolgersi ad un professionista, tutto quello che vuoi, però tante cose te le devi fare da te, perché anche per risparmiare un po' di soldi, perché sennò la cosa incomincia a essere un pochino pesante veramente, oggi con tutto quello che si deve fare, poi saperci fare con la clientela, insomma, è tutto, saper fare progettazione di ogni genere, perché sai benissimo che ogni persona ha un'idea diversa, un gusto diverso e ti chiede un lavoro diverso da un altro, cioè devi accontentare mille idee, o 10.000 idee e devi essere sempre in grado di poterlo fare, diversamente non si può andare avanti, ho detto, ecco, io intendo quello, è chiaro che è così. Mi fa piacere che anche tu sia d'accordo con me, avanti già. Sì, no, ma sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con te, Giulio, ma stai scherzando, l'atto amministrativo è una delle cose più complesse in un'azienda, tant'è vero che forse è peggio di quello lavorativo, forse, dico forse, perché se iniziamo a parlare, che ne so, io ho un amico frigorista che fa la carriera e non è così, e l'atto amministrativo non è peggiore di quello delle riparazioni, perché si inizia a parlare di cose ancora più complesse, capito, Giù? Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare avanti. No, non c'è nessuno che vuole entrare, vediamo un po' avanti. No, non sembra che ci sia, no, qualcuno che stava tentando di disturbare, ma non ha avuto modo di poterlo fare perché non c'era niente da fare. Sì, che passavi tranquillamente, nessun problema. C'era qualcuno che metteva una specie di cicalino, sentivo sottofondo, ma niente di più. Non era per niente fastidioso. No, ma sono drogati giù, è gente drogata, non ti preoccupare, questo periodo succede in radio. No, ma è la droga, capito. appunto come adesso ha fatto bel tempo, stanno seccando quelle piante lì di marijuana e stanno fumando, capito? E chissà cosa vedono, vedono diavoli dentro una radio, ma giù, cosa ti chiedi che sia? Gente, poco cervello, come che sia, andare a spendere dei soldi per poi praticamente considerare buttati dal momento che fai certi rispetti o cerchi di fare certi rispetti quando ti riesce, va bene, un minimo di soddisfazione può essere che ce l'abbiano, io gli auguro che sia l'unica soddisfazione della loro vita, ma quando non ci riescono, allora nemmeno di quello si possono vantare, di aver avuto un minimo di soddisfazione o di disturbato il tizio, perché magari mi è antipatico o perché ho voluto fare il cretino, di solito è perché volevo fare il cretino, ma niente di più. Non fa niente, non è un problema, tu arrivi con un segnale fortissimo qua, dunque te l'ho detto anche poc'anzi, con quale segnale arrivavo, dunque non è un problema. Ma in FM giù, magari chi sarà uccisso tutto, ma in FM che va meglio ancora, ma... ci sono? In FM sono giù. Roba, ci sono? Roba? Giulio, in FM sono. Sì, dai, però parla che ti sintonizzo meglio. Prova a parlare. Allineato, no? Ti avviso da io già, a me te ne giù. Caratteristica, ha delle misure ben precise per poter rendere al massimo. Diversamente la musica o il suono, insomma, cioè avrebbe delle strutture non differenti. Verniciato con quella vernice per tutta la vernice, e mi va bene quella, o il fondo apposito, o altrimenti, se proprio voglio fare, utilizzo della moquette speciale, o della moquette buonissima, molto giustamente per appunto sempre audio, e ti dico che anche quella va bene. Il problema poi giustamente è tirarla, incollarla, farle anche gli spigoli rinforzati alle casse gai. Sì, quello è fondamentale, quello si chiama incatenare la anche con i materiali antirisonanti, si creano diffrazioni all'interno della cassa, è un pasticcio, praticamente hai terminato e ho buttato via tutto, è così, specialmente con quelle con la corda a finestra sono le più complesse, quelle a labirinto non ne parliamo, non voglio entrare neanche in merito perché poi alla fine uno si fa la testa a mele ed è mamma mia. Che casse quelle, quando mi chiedono quelle labirinto mi sento male, giusto? Sì, beh certo, e io, scusa la tosse, ma in questo momento, stavo dicendo, io avevo fatto tanto tempo fa tutta una valigia per alloggiare dentro sia l'amplificatore che l'equalizzatore, lo spazio microfono eccetera eccetera, no? Che appunto più le casse separate, ma erano venute bene, per quello pure hanno chiesto, beh come va l'armonica, come va? Dice, è perfetta, dice, è come se fossero state costruite in fabbrica, sì ma io intendo il sonoro, com'è, lo senti bene, lo senti, lui è un esperto, perché è un DJ che da sempre, anche una certa età questo, vanno benissimo, non c'è differenza, anzi forse sono addirittura migliori le casse di quelle che si comprano già fatte. Infatti io avevo trovato in una rivista, avevo trovato tutte le misure e le ho rispettate al millimetro, ma proprio tutte. E beh, devo dire che il lavoro è riuscito al 100%. Sì, beh, è così che si fa. In pratica si può sbagliare, ma anche perché in quelle misure comprendono le tolleranze meccaniche. La maggior parte dei progetti sono così, quelli seri. Ovviamente i progetti poco seri non è questo che sia ben chiaro. Un conto è una cosa ipotetica, un conto è una cosa confermata e stracollaudata giù, a te ancora. Certo, perché hanno la musica ha le sue caratteristiche e una cassa armonica deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per avere un'emissione di musica perfetta, sia ai bassi, sia agli alti, medio, alti, tutti insomma, ecco. E appunto ci sono delle misure ben precise in base alla potenza che tu gli vuoi dare, cioè degli altoparlanti, eccetera, e soprattutto degli amplificatori che poi li accoppi agli altoparlanti. Sicché basta rispettare quelle misure, sono cose davvero progettate da ingegneri dell'elettronica e della musica, non è che sono cose fatte così a caso. E io ho seguito perfettamente quelle misure, dunque devo dire che ho avuto forse fortuna, non lo so, ma avendo seguito tutte le misure ho fatto un buon lavoro e basta. Beh, chiaro. È chiaro che bisogna rispettare tutti i parametri, perlomeno se uno se la vuole progettare, appunto, deve essere capace e comunque devi sempre rispettare i parametri preesistenti, non reinventare l'elettroacustica o l'elettronica, quello che stai facendo tutto lì. Vediamo ancora se c'è Massimiliano. Massimiliano. Attento Massimiliano, Archimede. Giulio, Giulio, attento Giulio. Chi è? Avanti, basso basso, chi è? Eccolo, buonasera, Francesco qua di Emerai. Ripeti perché non ho capito chi sei, eh? Brio, c'è di brio, c'è di brio. Brio. No, non capisco chi sei, troppo basso. Non me lo sentiamo, non mi stiamo parlando, troppo basso, non capisco. Tu lo senti già, l'amico? Falchetto. Guarda, 3, 4, quasi 5, quindi sento solo te perché sei alto, qualcun altro per fare molto alto, gli altri non c'è niente da fare, capito? Bisogna che uno veramente si faccia sentire qua e quando c'è QRM, ovviamente giù. Un'altra popolazione, mi ha detto Falchetto, avanti Falchetto, sei tu? No, io sono purtroppo vicino, momentaneamente faccio un attimino di pianto e riprendo subito, dai, fai qualcuno che faccia da ponte che sto facendo un attimo di pianto. Chiedi di più. Chiedo, ti saluto, un abbraccio. Grazie. Apro di pianto. Ok, non so, forse Falchetto, qualcuno me l'ha detto in sovrammodulazione, Falchetto, ma chi chiama amico in sovrammodulazione? Era Falchetto, ha detto che sta facendo un attimo di bianco in barra mobile. E quello dell'ultima parola l'ho sentito, barra mobile, quello l'ho sentito, Falchetto, sì, non lo capivo chi era perché mi aveva troppo basso, vabbè, io ho l'antenna sinistrata e dunque la ricezione mi manca totalmente, no, quasi totalmente, dai, da quella parte evidentemente dove mancano i radiali si trova lui, non lo so. Va bene, avanti già. È positivo. Comunque poco fa in FM non ti ho sentito, non c'è stato verso. Mi hai sentito in FM? No, mi è sembrato, appunto. Vabbè, non ci ho fatto caso anche perché poi mi sono girato al PC, stavo correggendo una cosa e mi sono dimenticato, sono ripassato in AM. Già. Gianni, non più giù. No, non c'è. Complesso. Sì, no, ma sono d'accordo con te per quanto riguarda le risonanze così meccaniche di vari materiali. Beh certo, tu pensa ad esempio il fratello che costruisce di un certo tipo, e addirittura pensa che solo per dei materiali adatti, ci vuole il legno adatto, ci vuole insomma tante cose, spende roba di 600 euro per chitarra, ti puoi immaginare, poi Giulio vende 1,5, anche 2, 2.000 euro. Però sono delle ultime chitarre, perché vari gruppi di una certa importanza hanno la chitarra appunto costruita da mio fratello. È da anni e anni che lui costruisce queste cose, capito? Già? Sì, no, ma non metto in dubbio la chitarra. Team, diciamo, io sono con Bartolomeo Loia, che siamo molto molto amici, che è il miglior progettista di tutta Europa, quello è uno dei grandi, poi di Luigi Marzullo, appunto Alberto Maltese, tanti altri che sono fuori dal nostro team, appunto tutti amici. No, non c'è problema, noi abbiamo praticamente una conoscenza a livello internazionale per quanto riguarda il campo audio, siamo molto aperti a questo. E anche nel campo in rete c'è l'ingegnere Fulvio, uno che a Napoli ha un'azienda enorme, che è lo stesso, quello lì ha una fissa per RF, che è un mostro con i calcoli, è un mostro con l'elettronica, e quindi anche con lui ci divertiamo un sacco e realizziamo delle cose belle. Però come ben vedi siamo sempre organizzati, insomma è da anni che progetto, sicuramente progetto da sole, le idee sono le mie, però ci vuole continuo aggiornamento, stiamo sempre tutti assieme a migliorare le nostre capacità, ecco, perché come ben sai c'è sempre da imparare. Prego, sul canale 10, prego. Avanti, prego. Buonasera a tutti quanti i componenti del canale 10, da questa parte Leoncino che vi super saluta. Ciao Leoncino, salutoni, sono in compagnia di Gianni, dal paese. Avanti Gianni per Leoncino. Città, non è più paese, città. stata inviata con Tranguiglia Romeo India, già da un bel pezzo. Allora, Delfino lo sento molto piccolo di radio, come segnale ci siamo, Delfino? Dimmi già. Ma come mai hai questa modulazione soppressa? Quasi non ti sento, ho sentito Ilia e Ilia e sono in cuffia. Ma è soppresso? Ora, ora, 1, 2, 3, 4. Adesso è più decente, aumenta ancora. Ah, ma guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dica ancora, aumenta, aumenta che mi paghi il tagliare, te lo dico io. Più di questo non posso aumentare. E allora mi accontento così, perché io ti sento bene, non c'è problema, il segnale è forte, quindi... Vediamo un po' Giulio come ti senti adesso, giusto? Sì, io lo sento bene, lo sentivo bene anche prima, non siamo molto lontani lui, almeno lì nell'aria, lui a Sassari, vabbè, io sono di Punti, dunque, però va bene. Ma forse c'è qualcun altro che vuole entrare, avanti, chi era che vuole entrare? Avanti, Claudio! Allora, avanti! Mi sembrava la porta di Claudio, un bel ciocco. E vabbè, quindi mi sono sbagliato, pazienza. Ci vado a sbagliarci. Allora, vabbè, sinceramente ne ero convinto, nel senso che naturalmente la su fuoco non ce la mettevi mai. No, io non scatto il microfono, perché ho una passione particolare per quella timbrica di quel microfono, mi piace veramente. Avanti, mio vicino. Sentito a Gianni Doppio Ru. Sì, su questo canale era su questo canale, poc'anzi stavo parlando con lui, ma forse è andato a fare un riposino, non lo so. Ehi, se lo senti di che lo stavo cercando e di farsi sentire, capito? Ok, d'accordo, amici. Ebbene, ancora lavorando, sai, invece, sì, spero di sì. Io termino adesso il 14, venerdì prossimo termino di tutto, capito Giulio? Termino la mia stagione, dai, e poi dovrei riprendere qui a Sassari. Ok, meglio così, sono contento per te, così almeno hai risolto il problema del lavoro. Meglio, meglio, meglio così, sono contento. Avanti Gianni. È positivo, e dopo Roma è la tua? Doppio Ru non rispondo, ha votato, doppio Ru ci sì. Non c'è, evidentemente sta dormendo, non lo so, lui a questo lato, il riposino se lo fa, e fa bene, e fa bene. Ah, saluto un mille, ah, saliva che sulla strada che hai sicuro, ah, su manco la sussega non è frutta, anche sta correndo tutta lì. Infatti anche lui già sacrificato tutto il giorno e torne, non lo fare, che rimane purtroppo così ho già, non ci sono interessanti a verbo anche il mio vicino Giuseppe. Mi è sembrato di sentire Giulio pure a coso a Falchetto, sbaglio? Lui, Antonio Falchetto, buonasera, dopo, salutoni dopo una marea di tempo, cambio. Ma cosa Castellina, lascia perdere a tu, se ti spiego, già ci avremo modo di vederci verticale, non ci sono problemi, dai. Adesso già ti ho sentito, si vede che ti sei spostato dalla posizione che trovavi prima, adesso mi siedo un po' tranquillo, non sono problemi. Avanti Gianni. È positivo al 100. Ma no, io mi sento tutto tranquillamente, non c'è problema. Tu come al solito mi arrivi splendidamente, quindi... tranquillo, nel senso del QRM che qua è sempre costante 3, 4, 5, capito? E via. Versamenti ti sento in modo ultimo. Compreso, caro Giuliè, l'elettroacustica è quella, bisogna saperci fare, conoscere tutti i due. Tutto lì, carissimo Giulio, ci vuole passione, come dici tu. Ci vuole passione, ci vuole anche testa, soprattutto perché, anche perché devi essere sempre aggiornato. È un po' come il medico, perché l'elettronica purtroppo è una cosa che va sempre, purtroppo, è un vantaggio, anzi, è una cosa che fa molto, molto, molto comodo che vada sempre avanti l'elettronica. E dunque il tecnico si deve sempre aggiornare continuamente perché vengono fuori macchine nuove, componenti nuovi, schemi nuovi, tutta una serie di cose che purtroppo la gente sta sempre così su chi va, attenta per fare il lavoro che deve svolgere, capito? Quello è il minimo che può fare uno. Quello è il minimo che uno può fare. E via, beh, certo, giù. Se uno si aspetta da certe cervella lavori così è un po' difficile, oggi è diventato un po' critico perché oggi è tutto pronto, sai, telefonini, pod, capito? E quindi non è che ti può aspettare più di tanto. Sì, sì, c'è qualcuno che si sta impegnando, visto anche nelle ricerche elettroniche, anche nel nostro gruppo c'è gente con le palle quadre, ma non sempre bisogna dedicarsi e appunto non piace a tutti sacrificare giù, capito? Il resto poi, vabbè, il resto lasciamo perdere tutta quanta la, come si dice, la mondezza che c'è in informatica, la mondezza che c'è in elettronica, elettromeccanica, impiantistica, perché quelli manco a vederli, è tutta gente che insomma sta bene di dove, avanti giù. Ok, beh certo, questo sì, appunto per quello che ti dicevo che ci vuole una certa mente, ci vuole per poter andare avanti, diversamente uno rimane così al palo e allora man mano che la tecnica va avanti non lavorerebbe. E io adesso mi è venuto in mente un amico, adesso non facciamo nemmeno nome, che era un radiotecnico questo che era bravissimo con l'apparecchiatura a valvole, pure hanno incominciato i transistor, hanno incominciato gli integrati e tutto sommato si perdeva perché sinceramente sì, magari riusciva ugualmente a fare un lavoro, fare delle riparazioni TV eccetera eccetera, però anziché impiegarci per dire il tempo che ci si doveva impiegare ci impiegava 2 giorni, 3 giorni perché faceva mille prove, mille cose, tutto questo perché lui non si era mai aggiornato nella materia in cui appunto svolgeva il suo lavoro, ecco tutto lì. A differenza dell'altro sucio che c'era prima, quello invece nonostante che era molto più anziano di età, quello era un uomo sempre con i libri in mano, nonostante la sua età non più verde, e riusciva a fare il lavoro in brevissimo tempo, a differenza di quell'altro che era più giovane ma meno volontaroso nel volersi applicare sempre di più, capito? Ah beh certo, un tecnico non si forma tramite internet o bevendo da fontane sporche, assolutamente, sono cose che vanno di pari passo appunto con la tecnologia e rispettando quello che appunto sono le leggi dell'informatica, elettronica, elettromeccanica già esistenti, anche elettroacustica. Non si può reinventare niente, capito Giù? Cioè volevo dirti questo. Eh beh certamente no, però si va avanti con sempre, i progetti sono sempre sviluppati sempre più all'infinito e allora se uno non conosce, se non ha la conoscenza necessaria rimane al palo e non, questo non si discute. Vediamo un po' di vicino se c'è ancora di vicino. Ci sono Giù. Stavo aspettando che mi date la parola per salutarvi, dai, e c'è arrivata gente, ci sentiamo al limite delle prossime, dai, saluto a te Giulio, saluto a tutti della Vico, e ti dico provvedere, confermi. Ok, no, è un amico è Haiti, nella città. Ti saluta, ma sicuramente già ti ha sentito a te, dunque avanti già. il delfino non c'è problema. Salute delfino, voi. Ma è dopo, ma vedo più rumore, era andato in stand-by, Massimiliano, non si è sentito più, riprendi giù. Ok, un amico che è andato via è Leoncino, non delfino, Leoncino, QRA Giuseppe. Va bene, è qui a Sassari. Va bene, bene, bene. Vedete Gianni è stanco da lavoro, lui lo sa il lavoro lo fanno e sembra così, ma è un lavoro massacrante, devo magari salire piani, le scale, insomma, me ne rendo conto, non è facile. Me ne rendo conto perché quando io faccio dei lavori che poi vado a consegnare e devo dire alla sera sono a pezzi proprio per via del lavoro diverso che fai fuori dal laboratorio. Ma sei abituato a lavorare, no? Uno è il lavoro del laboratorio, l'altro è il lavoro esterno al laboratorio che ti massacra proprio. Perché? Perché non sei abituato. Sempre. Ma a tuo proposito, non sei in pensione? Sì, sono in pensione, ma sto continuando e forse a fine anno mi cancello e non se ne parla più. Così almeno chiudo e boh. E ti conviene, capito? Ti conviene, tanto oramai, se hai maturato volontariamente. Certo, la pensione è sempre lì. Ti dà un fastidio? No, ma è più che altro... Abbiamo parlato di persone che aprono e chiudono in brevissimo tempo. E io dopo 44 anni di lavoro autonomo, perché ti puoi immaginare tu, qual è la mia abitudine, e soprattutto la mia abitudine, la mia vita è praticamente me la sono trascorsa lì, tutto sommato. Si fa cosa pensi, cosa fai, di più. Non è semplice, sembra facile, ma non è semplice saccare il punto in bianco. Sei maturato, lascia perdere. Capito? E dunque a questo punto qua cosa vuoi fare? Anche per non lo sta. L'età pensionistica tanto sai come sono impostati i parametri. Le cifre che ti vuoi indubbiamente sono dubbi. E allora le cose vuoi. Sei raggiunto giù. Ti conviene, giusto come hai detto, chiudi e basta. E boh, e adesso? Ormai non c'è più niente. Anzi, ti devo di più, addirittura i fornitori li vengono chiudendo. Uno nel senso che mi dagli lo stesso. Diciamo così, andaci, perché tanto quando comunico essendo il materiale, io che non faccio le bucanze, oppure non sono più due abiture, già. Lì c'era anche come da quel Palmieri, no? Nitti, quello della da friare. Sì, quello c'è sempre, quello è l'unica, in grado di fornire tutto il materiale, salva ancora un po' lo stesso, imprese della zona in grado di soddisfare uno o una loro attività succede. Sì, beh, alla fine, come si stanno organi, punto di vista, no? Sono dei più vecchi, per dire 300 km dell'elettrico, se vai e ti chiedi che sono uno, dici che tu, perché perlomeno alle serature dove mancano le maniglie, ecco cosa intendo vuol dire, capito? Sì. Allora, 80, quinta anche di maniglie iniziano a fare trafi d'acciaio, bulloneria grossa, che ne so, barre filettate, elettrodi, stagno in quantità industriale. Sì, ho capito come sto rientrando. Anche buoni per te. Certo, sì, ma è così. Una volta quando c'erano gli anziani era tutto diverso, avevano la fornitura soprattutto per la classe artigiana. Quella, il macinino per il caffè, ti davo pure che so io, una macchina per i pomodori, più la macchina per i pomodori, a differenza avevano. Ecco, ha cambiato diciamo in un certo senso hanno cambiato prodotto, ecco, tutto lì. Evidentemente a loro conviene così, visto e considerato che ormai gli artigiani stanno scomparendo un po' tutto, ma se vedi la città vecchia qui, guarda, è uno squallone, tutte le serrande sono passate, non c'è più nessuno, qualcuno così sporadicamente. Se vedi un negozio aperto è quasi sempre cinese e basta. Sì, oramai è così, ma loro. Quello che mi dispiace di più è che è andata a farsi fottere la qualità. Purtroppo anche una concessione di progetto, cioè la Philips ha concesso a progetto e dato alla Cina in mano certi brevetti, hanno fatto un gran pasticcio, sono venuti fuori delle mondette. Philips si è impapocchiata da tempo e non mi piace più. Ha solo qualcosa, ma in Austria e quella delle Filippine che costruiscono ben... Sì, dimmi il massimo, sì, in effetti è così, d'altronde lo sappiamo, si sa, il prodotto cinese non è certamente il nostro prodotto, questo è ovvio, però intanto stanno facendo danno, anzi, hanno fatto molto danno all'economia italiana, se poi vogliamo introdurre a loro anche come economia italiana prodotta dall'italiano stesso, sicuramente si è matta dal momento che loro sono, diciamo così, avventurati nella nostra nazione e hanno impiantato dei grandi magazzini e insomma delle grandi aziende anche sempre sia i cinesi che ci sono i marocchini, ci sono i senegalesi, i russi, poi tutti. No, aspetta, i russi sono un'altra cosa. Non mi chiamo il cavolo con Gesù Monte. Allora, i russi è un altro discorso. Se poi sono amici dei cinesi perché fanno i cinesi e si sono trasformati, è un altro discorso. Gli apparati sono mondezza, gli strumenti sono mondezza, lo stagno è mondezza, il filo di rame è mondezza, i cavi UTP sono mondezza, i ricetrasmettitori sono mondezza, è tutta mondezza la roba fatta in Cina. Sì, sì, sì, no, ma io intendo come noi che si sono messi insieme, che anche ci sono verità che ci sono dei russi qui, capito? Intendevo quello, tutto lì, niente di perché. Una volta, 50 anni fa, se c'era solo uno russo, che era esattamente quello vicino alla radio, Breve Graziano, con lui è un bravissimo radiotecnico, sicuramente l'avrai conosciuto tu, era russo quello per quanto ne so io. No, Grishenko, il nome Grishenko era quello, sì, quello vicino alla radio. Grishenko, non Breve Graziano, aspetta, cosa sta dicendo? Non era Breve Graziano, mi sto confondendo. Non mi ricordo, si chiama Grishenko comunque, quello che aveva detto Grishenko, quindi è un grande radiotecnico ed era russo, questo me lo ricordo perfettamente, però non mi ricordo come si chiama di nome. Guarda, sì, sapevo che lavorava radiotecnico, ma soprattutto lavorava molto sulla bassa frequenza, moltissimo sui giradischi, ne sapeva un be, e sulla preamplificazione. Non era molto bravo sui finali di potenza, ma era molto bravo nella potenza. È vero, quando allora, in quel periodo, no, quando si facevano i vari comizi politici, alcune delle manifestazioni, degli altoparlanti eccetera, era sempre lui quello che veniva chiamato sicuramente dal comune o che ne so io, dalla provincia, non so chi lo chiamava, era sempre lui che faceva questi lavori. Ok, no, ma guarda che sì, so che faceva anche impianti di filo di fusione per audioconferenze. No, era bravo, poi avevano fatto una radio, mi pare, vero? Oppure assisteva a una radio privata, una broadcasting? Sì, aveva una radio, e vi dico adesso, aspetta come si chiama, Radio Holiday, mi sembra che si chiamasse quella, sì, Radio Holiday, quella era, che poi c'era anche un presentatore che in quegli anni, negli anni 70, forse anche negli anni 80, faceva anche il CB, Flyner, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che è così, Sì, beh, io mi ricordo che aveva una buona nomina. L'ho conosciuto in un'occasione, allora c'era Audiolinea. C'era un'Audiolinea, così hai detto? No, Audiolinea, vicino al cinema, su, Audiolinea, quel negozio. Ah, sì, sì, sì, è vero, sì, è di fianco praticamente era. Ecco, io modificavo i Technics, no? I sintetizzatori, quei ricevitori sintetizzati appunto, li modificavo i sintetizzatori di quei ricevitori proprio per renderli più veloci, più ampliamento di memoria, già da allora. Sì, mi riconosco che Crigen con una capacità di progettare lì casse acustiche. Era molto ferrato in materia, proprio per quanto riguarda l'elettroacustica, poi il resto non ho avuto poi più occasioni, sapevo questa cosa qua della radio privata. Sì, era molto bravo, sì, era veramente bravo, era nominatissimo a Sassari per questo. Sì, poi c'era Breve Graziano, anche lui un bravissimo radiotecnico di quei tempi, molto bravo, poi c'era l'altro di Paolotto, anche lui un bravissimo radiotecnico, Paolotto però, lui è milanese, so che è milanese, aveva lavorato per svariatissimi anni di Noleda, quando esisteva Noleda, allora Sassari, che vendevano radio TV eccetera eccetera, e più mobili anche, perché loro avevano anche la famiglia Meria, avevano, che costruivano e vendevano roba costruita loro stesso. E poi diceva, lo stesso Franco Engels che è uscito da Paolotto, ma Franco Engels lo conoscerai, ancora oggi è in attività a Predanieda, a Sassari, è un bravissimo radiotecnico, ma bravo veramente, è un allievo appunto di Paolotto. Videotecnica Paolotto, ma uno di quelli è un mio amico, che adesso fa impianta pannelli solari, impianti elettrici, qualche volta forse lui mi ha firmato qualche impianto grosso, pare l'impianto di un campo sportivo, una volta l'avevo tirato dei cavi e se l'era poi firmato lui, che mi ricordi bene. Aspetta, tu stai parlando di Salvatore Fransecchi? No, sto parlando di Franco Ennas, era un ex allievo di Paolotto, io me lo ricordo perché ci conosciamo da bambini, ci conosciamo, Franco Ennas ha circa la mia età, e mi ricordo che allora lui lavorava da Ninoletta e lì come tecnico TV, radio TV, da Ninoletta c'era Paolotto, tanto è vero, Franco Ennas ha imparato proprio da Paolotto, che ripeto, Paolotto non è sardo, Paolotto so che è milanese o qualcosa del genere, là, io da quelle parti lì. E devo dire che Franco Ennas è diventato un bravo, bravissimo, ma veramente bravo radiotecnico. Questo te lo posso assicurare perché lo conosco molto molto bene io. Sì, ma io non sto parlando di Franco Ennas. Sto parlando di videotecnica Paolotto, sto parlando che adesso quel ragazzo non c'è più e sta facendo impianti di pannelli solari e ti sto spiegando che anche ultimamente ha messo 4 tir di pannelli solari in una zona particolare, ha preso 30 operai per un mese, c'ero anch'io lì che stavo assistendo alla storia, te lo sto dicendo per quello, quello è Salvatore Sicchi che fa manutenzione negli aeroporti e compagnia bella. No, questo non lo so, questo nome non mi viene, non credo di conoscere questa persona, non te lo so dire, già, non ci so rispondere. Sì, perché lavorava con Paolotto, è molto bravo lo stesso, però adesso sta facendo di quegli impianti lì, poi Franco Ennas va bene, sarà uno che è stato sformato da quella scuola lì, poi non so se Franco Ennas personalmente stia esercitando, so che c'è la figlia Loredana mi pare, no? Vabbè, ma lui c'è sempre, certo, quello sì, ma lui c'è sempre, è chiaro che il laboratorio non è che l'abbandona così, no, ci mancherebbe. Noni, ma personalmente lui, da quando aveva avuto quel problema, c'era il figlio che aveva avuto, insomma, se non so se ti ricordi, lui delegò molte cose? Veramente, certo, beh, sì, ma questo sì, lui, ma non solamente risalente a quel periodo, anche prima, perché ha avuto sempre gli operai, devo dire, però lui è stato sempre una persona molto, molto in gamba, nel senso che controllava di persona direttamente, praticamente i lavori che gli facevano gli operai, eccetera, lui pure li visionava e li collaudava, non ti crede che lasciava andare il lavoro così, l'hai fatto, vai, prendialo, incassiamo i soldi, no, è una persona seria, ma era sempre stata. prescindere, non voglio, per carità, ho detto che il nasce non c'è il suo lavoro, ci mancherebbe, no, era giusto per capire come è andata la storia. Perché io sono venuto a conoscenza di questo ragazzo che lavorava alla videotecnica Paolotto. Dito lì, c'è un po' di bianco, vediamo un po'. Vabbè, pazienza, se vuoi che se ne sono andati al mare, oggi è una bella giornata. Ma che facciano con voi, noi siamo qua, se vuole entrare qualcuno basta aprire qua. La frequenza è aperta, giù non ci sono problemi. A me mi fa piacere quando entra qualcuno, figurati. Sì, anzi, sentiamo i fini, dal 2 di luglio al 3 di agosto, dal 2 di agosto al 3 settembre, mi sono fatto un mese intero di ferie, e ho acceso più volte anche durante la giornata, quando ero a casa, non sempre, ma quando ero a casa, e non riuscivo mai a sentire nessuno, eccetto qualcuno, ma raramente, si vede che tutti erano in ferie naturalmente, ed era anche giusto così, meglio partire vacanze che stare a baracchino magari. Ah, quello sicuro. Quello sicuro, caro Giulio. E la radio, te l'ho detto, lascia il tempo che trovano, non è cosa da frequentare molto. È una di quelle cose che va bene e non va bene, insomma. È così da. Come stiamo facendo noi, poi basta, poi diventa anche noiosa la radio. È una di quelle cose che io sinceramente non frega nulla, ma figurati un pochino. No, se è giusto così, perché scambiare quattro chiacchiere con qualche amico, poi no. Non sono una persona che ne fa malattia, via. Prego. Avanti. Ciao giornalisti, ciao Giulio. No, sono entrato a salutare Giulio, ma avete da questa parte ho dedicato che un sacco di tempo e lo sentivo, e quindi mi fa piacere, vuol dire che so che non è stato molto bene, che ti sei più o meno ripreso. Avanti Giulio. Ciao Fabrizio, salutoni, grazie per essere entrato a salutarmi, fa molto piacere veramente. Sì, va bene. E tu, tutto bene, sì? Sì, tutto bene, mi nascondo sempre facendo qualcosa, quale un servizio, sto operando sempre qualche radio, sempre qualche problema, e quindi lavorando qui qualche piccolo progettino, ogni tanto sto facendo, visto per tenermi l'allenamento. Sono i primi minuti, ma lo sai, stai facendo qualcosa, tutto giusto per fare, per non perdere il vizio, e quindi giù. Ok Fabri, un attimo già, subito ti faccio venire avanti, volevo fare gli auguri intanto a Fabrizio. Fabri, non so se sono scorretto se ti chiedo se ti è arrivata la sigla. No, ancora la sigla non è arrivata perché ho chiamato a Roma e chi mi deve dare la sigla, come mi piace, è ammalata, cacchio, le sfiga, e sono un mese che sto aspettando, anche di più, adesso sono più di un mese che sto aspettando, e infatti sono già operativo su tutto, ma non posso fare niente finché non arriva questa sigla, quello per aspettare un altro mese devo fare la domanda generale, l'autorizzazione generale, e quindi sono operativo, vabbè, poi andare a avere la patente, poi per il resto un mese prima, un mese dopo non succede niente, grazie a lui. Ok, Fabri, sì, certo, è solo questione di tempo intanto, una volta fatto quello che si doveva fare è solo questione di tempo. Ti mando avanti Gianni, che lui è un grande radiotecnico e dunque anche lui se vuole ha quella possibilità di poterlo fare, a differenza di me che io non posso farlo perché io faccio falegname e non certamente il radiotecnico. Vai Gianni! Gianni Secondi Antonio da Torino. Attento Gianni. Attento Torino, un attimo, mi ascolti? Vabbè. Attento Gianni da Itini. Attenzione Gianni, se copia Antonio da Torino. Torino fa chiamata, cambio. Attento Torino, ascolti Sassari. Sassari ti ascolto, forse è chiaro, buongiorno qui ancora operatore Antonio Torino, centro Torino. Ok Antonio, salutoni ben sentito da parte mia, Giulio da questa parte, Sassari Sardegna, ti mando avanti Fabrizio che è qui in compagnia con me, avanti Fabrizio. Ok Sassari. Okay. Francesco di Sassari. Un attimo Antonio, un attimo, perché probabilmente Fabrizio non ti ha sentito, Vieni avanti di nuovo Antonio, Fabrizio da Sassari, qui nella mia città, perché vi siete sovrammurati e probabilmente lui non ti aveva sentito. Riprovaci, avanti Antonio da Torino per Sassari. Non c'è più preparazione, vai Fabri. Anche io non lo sento più. Attenzione, Torino che ascolti Sassari, io attivo qui forse dove io dovrei, a me vuole sentire, ha attaccato qualcosa, boh, attenzione. Proprio forte e chiaro te, proprio ti ho sentito, ti ho ascoltato bene, tutto forte e chiaro. Ok, adesso ti risento, quindi se mi senti bene vuol dire funzionando tutto per benino. Ti rilancio Giulio per avere attivo se ascolti, avanti Giulio. Ok, ok Antonio, mi fa piacere ascoltarti. Torino, dove sei? Torino città? Oppure nei paraggi? Mi confermi? Io ci sono. Sì Giulio, Torino città centro Torino, Piazza Rivoli, vicino proprio centro. Ok Antonio, ti mando avanti Gianni da un paese, da una cittadina vicino alla mia città, avanti Gianni per Antonio di Torino. Aspetta appena, ora un attimo, secondo ti prendi giù e arriva. Appunto, volevo rilanciarti per parlare con Antonio da Torino, che non so se riesci ad ascoltarlo. Gianni, mi confermi se l'ascolti? Oh Giulio? Sì, non mi senti Gianni? No, ti sento perfettamente, hanno avuto distratto qui, stanno facendo delle cose, mi hanno deviato in due, in tre. Sono venute due o tre due o tre donne qua, le stavo ridendo tutto lì giù. E chi è che c'è vicino a te? No, vicino a me non c'è nessuno qua. No, c'è Fabrizio a Sassari, questo sì. Però c'è Torino, vediamo se c'è ancora in collegamento. Attento Antonio, da Torino se sei ancora in collegamento. Ho capito, Torino mi ascolti? Giulio, non so se mi copi ancora, la propagazione va e viene. Sì, ti ho ascoltato adesso, ha detto la propagazione va e viene, ti ascolto 4-5 qua, radio buona, avanti. Ok, fa piacere. Ho chiesto che tu mi fai dire bellissimo in Sardegna. Sì, è soleggiato, non c'è problema. C'è un filino di vento, ma va bene, è soleggiato, diciamo clima mite, ecco. E qui va un caldo tremendo, ma un'acqua più che altro, è un caldo brutto. È positivo. Ma piove nuovamente, vedete che farà temporali. Adesso si starà stabilizzando il tempo. Giù l'hai copiato tu? Sì, l'ho copiato a Boccarsi, ci stavo parlando, anche Fabrizio l'ha copiato. Avanti Fabrizio per Antonio in Torino. Ok Antonio, no, io ti ascolto bene di Antonio, ogni tanto manca la propagazione, probabilmente tu mi ascolti meglio, però per lui mi avanti, vediamo, dammi un controllino di radio Santiago per favore, mi attiva. Io non lo sento più, attento Antonio. Sì. Un colpo piano, è la propagazione è così, sale e scende. Ok Antonio, allora, tornando avanti Fabrizio, che necessita di un rapporto segnale radio, avanti Fabrizio per Antonio. No. Ok Antonio, se mi ascolti, io ti ascolto un mancino, la propagazione forse sta andando via, magari Giulio ti ascolta meglio. Se mi dai un controllino di Radio Santiago ti ringrazio e poi ripassiamo magari al questo locale perché la strada non mi fa propagazione. Ti ho scattato Fabrizio adesso nello forte piano, il Santiago anche a me cosa, poi la bella 5, una bella radio di 5. Piatto Fabri, una radio di 5, Santiago 5, una radio 5, bella pulita, ti ha detto. Ok, allora va bene, no, perché sono contato, ci sembra un po' qualche radio, dovrei tirare fuori meglio, e questa soffre un po' di ricezione. Va bene, dai, rilancio e avanti Gianni? Sì, avanti Gianni. Buonasera Fabrizio, auguri per l'illuminativo, auguri per l'esame, per quello che hai passato appunto. Molto in gamba, complimenti. Ecco, questo te lo volevo dire. Non sapevo che appunto avevi passato l'esame da radioamatore, quindi ti rilancio, poi magari farai girare per l'amico di Torino. A te ancora Fabrizio. Sì, ok, dai, riprendo io e ti saluto. No, anche io qua sono in ascolto perché niente, come diceva Giulio, mi sono le cose, sto operando, ho una radio in mano, quindi sto terminando di fare questa riparazione, magari ci sentiamo dopo, dai, già come sai già che qua stiamo sempre operando qualcuno. E sono entrato per salutarti perché era un po' che non ti sentivo, allora avevo piacere di salutarti e mi ha fatto molto piacere soprattutto ascoltarti. Io rimango in ascolto, riprendi Gianni a rigirare. Sì, perfetto, ok, buon proseguimento Fabrizio, no, sei pure in ascolto, noi siamo qua, almeno per ora poi chiuderò sicuramente perché mi sta iniziando a saturare la radio, altro che sono praticamente preso da altre cose anche io qui. Vediamo un po' Torino. Vediamo se c'è ancora, ma mi sa che la propagazione è scesa. Attento Torino, attento Antonio, ci sei? La prova arrivi tu, guarda, il bip. Per il bip, ma pazienza il bip, sono in linea, eh? No, non hai capito la battuta, arrivi perché è il bip. Tutti due, compreso. Beh, no, ma ho sentito che andava su 5, 3, 2, un casino. Propagazione. Anto, Torino, mi senti? Non c'è più propagazione. Va bene, Fabri, comunque ti saluto se sei in quel ricchi, ti ascolto. Non so per quanto ci saremo stasera ancora a Baracchino, vediamo un po', salvo visite, eccetera, eccetera, a queste parti. Allora dovevo interrompere sicuramente, ma comunque per adesso ci siamo. Ok, confermi, Fabri, che rimani in quel ricchi oppure continui con noi? No, ti confermo, rimando in quel ricchi che certo ciò di questa radio qua ti ascolta in telefono. Ok, d'accordo, buon lavoro allora, Fabri, ritieniti salutato eventualmente se devi allontanarti e magari pure quando ritorno noi ci siamo. Avanti Gianni. Ciro che Fabri, buon proseguimento. Come vuoi tu, noi siamo qua. Compreso giù. Gai este esa vita, gai este, gai esista la. Lo so, d'altronde, ecco, questo è un altro di quelli appassionatissimi come noi, già. Fabrizio è uno di quelli che merita veramente la radio, perché è uno di quelli appassionati, è una persona seria, non perché sia davanti, ma l'ho sempre detto a tutti, io. E poi si diletta anche, soprattutto, in quello che è la materia di elettronica. E ci riesce, io sono un po' contento per lui e soprattutto sono contento perché so di fare affidamento su un amico appunto che sta in frequenza, tutto lì. Spero di sentirlo molto spesso perché lui adesso essendo un radioamatore fra molto passerà anche in altre frequenze, ma non credo che disdegnerà sicuramente questa frequenza perché a me mi dispiacerebbe se lui si allontanasse da questa frequenza. Va bene, avanti già. Yes. Come vuole lui. Io ho sempre detto una cosa, il giorno che ho il patentino in mano non cambierà niente, tutto più lo metto sotto al cane e le faccio fare la pipì sopra. Non penso che sia la patente radioamatoriale che cambi quello che è una persona e non ci credo proprio. Capisci giù, ma tu prendi, no? Prendi, nota bene, ci sono persone che come si comprano un baracchino solo perché si hanno preso un baracchino, solo perché vedono i numeri nel display vanno fuori di testa. Quindi posso anche credere che ci siano personaggi che vadano fuori di testa quando prendono la patente, ma non è il caso di Fabrizio, e neanche il caso mio o di certi altri. Capisci giù? No, non credo che devi così facilmente, noi siamo qua e via, cui giustamente spazierà perché la patente glielo permette e ciccia. Tutti due, ma dipende sempre dalla cabina, se la cabina è lesionata in qualche modo, allora come piove poi o se la scintilla giù. Certo, infatti io apprezzo moltissimo tutti quei radioamatori patentati, io parlo di quelli patentati, che entrano su questa frequenza, anche se non molto spesso, comunque diciamo che sporadicamente mi sento e potrei fare tanti nomi. E apprezzo soprattutto a Piero, ad esempio, il modo di pensare di Claudio. Claudio dice, io sono nato qua e continuo a starci qua nonostante c'è la patente. E questo per me è un dialogo veramente esemplare. Io la penso in questo modo. Io perciò ti puoi immaginare se io rinnegassi per dire un amico della frequenza, ma nemmeno per idea, ci mancherebbe altro. Anzi, sono felicissimo che proprio i radioamatori si facciano vivi anche il 27, questo per me è anche un motivo di soddisfazione, anche perché tutto sommato, guarda, la frequenza dei radioamatori io l'ascolto abbastanza spesso, vado nella sua frequenza come ricevitore, sento tante cose. L'altro giorno c'era un dialogo, sinceramente, in 40 metri, guarda, era una vergogna, c'era questo portantista, chissà chi era, che sinceramente, guarda, ho spento io ho spento, stavo ascoltando, io non è che posso trasmettere, io ascolto e basta, e stavo ascoltando, e c'era questo portantista in 40 metri, ma dico io, ma dov'è questo, non abbiamo trovato, può essere, questo qui è un citrullo e basta, non può essere una persona seria, tutto lì già. Guarda, io odio quelli che mettono le portanti, proprio li odio, li impiccherei. Io quando devo mettere le portanti mi presento, Claudio mi ha sentito a me, mi presento, vengo fuori, ti faccio un sacco di casino, io sono fatto così. Se ti metto portante te la metto con annessi e connessi, no, non c'è problema. Però è comunque una perdita di tempo, ovviamente è una perdita di tempo. Ma se uno la mette deve dire, ecco, sono io, ti sto mettendo portante perché non ti voglio lasciare parlare. Tutto lì, quindi, è inutile che uno metta portante. Che cosa? Cosa se non serve a niente? A meno che, come hai detto, tu non realizza che riesce a coprire l'altro e in quel caso lì, nel caso dei 40 metri, come mi hai raccontato. Ma e poi giù, ma vaffanculo, ce ne sono frequenze, uno che si ammazzi, ma itega. Non è quello, non sono le portanti che fanno la frequenza, no? Oppure come stavamo dicendo, il radioamatore che passa radioamatore non va più in 27, Claudio no, è una persona che io ho conosciuto un sacco di anni qua, giustamente quello dice, scusa, è un po' come farmi dimenticare il primo amore, non mi pare corretto, mentre che certi purtroppo non sono più ritornati in 27. Un attimo il break, sì, in effetti così, appunto è quello che intendevo dire. Io apprezzo soprattutto il modo che ha di ragionare lui proprio a questi livelli, perché dice io sono nato qua e continuo ad stare qua, non capisco per quale motivo io debba rinnegare la frequenza in cui sono nato. È assurdo, guarda, per me da mentalità contorta, sinceramente. C'è stato break, avanti. Una buonasera cordiale, lo va a tutti, Gianni Doppiuru. Nessuno giù. Ok, c'è Gianni Doppiuru. Non mi vorrei dire che stai andando a faticare, no già? Diciamo di sì, dai, prima devo fare le cose al lavoro. Ciao ragazzi, infatti sono uscito un po' prima, perché devo passare la mia sorella prima, poi va lui. Ciao ragazzi. Comunque poco fa non vi potevo rispondere perché c'era la moglie addormentata e ha chiesto cortesemente di spegnere perché era stanca, quindi non ho risposto per non dare fastidio. Ho capito già, ci mancherebbe altro, cassettina. L'ambito familiare è sicuramente più importante del baracchino. Il baracchino è una bella passione, una cosa che piace un po' a tutti noi, però la famiglia è sempre famiglia, è più importante già, non ci sono dubbi. Ok, avanti Gianni, l'altro Gianni. E comunque Gianni Giaguaro, non c'è problema, chiamami Giaguaro uguale. Comprei cosa di Pato Marruda è uguale. Ciao già, di nuovo ben sentito. E via. Capito giù. Non mi importa a me la frequenza così che devo stare a cavallo di uno che metto portante o di quello che è blanco, ma non me ne frega niente, anch'io ascolto sui 40 metri, ascolto e ne sento, ma per carità, ma non mi importa, ma non... sono passivo a molte cose, capisci? Io ammiro, ecco, come stavi dicendo tu, le persone come Claudio Petro si fanno il discorso, eccetera, eccetera. Beh, a questo punto, considerato i considerati livelli, io non dovrei parlare più con nessuno, allora, perché conosco, insomma, l'elettronica che lo faccio per lavoro, allora non parlo più con nessuno, so tutto, di tutto, è un casino, non va bene. Non va bene, cioè non c'entra niente, la radio è la stessa cosa. Allora un radioamatore ha acquisito grado e non parla più con quelli che sono i 27 mega. Oh, e questa è nuova, questa non la sapevo. E appunto, ma certa gente ha una certa mentalità e si prendono di essere diventati chissà chi solo perché hanno conseguito la patente di radioamatore. Invece no, io ripeto, non sono Claudio, ma ha preso Walter, ha preso Salvatore, ha preso Alessandro, lo stesso Fabrizio, Vannino, Lassorso, insomma tutte le persone che hanno la patente e dove entrano molto spesso in 27 e questo per me è motivo di grande soddisfazione, devo essere sincero, tante volte non posso entrare magari per questioni familiari, però ti posso garantire che sono ugualmente soddisfatto quando rimango all'ascolto, senza stare lì a fare il cretino come fanno certe persone, portante a destra e portante a sinistra, ma è da stupidi veramente, non ha senso, ecco, non ha senso. Avanti, Gianni Piovù. Prometto, fra parentesi, che sono tutti ex-CB. Anche quello, appunto, è quello che stavo dicendo, non puoi rinnegare tu, diciamo così, il piatto dove sei mangiato, ci mancherebbe altro, la frequenza che tu hai conosciuto, per prima non la puoi rinnegare nella maniera più assoluta, è da stupidi, ecco, è un pensiero stupido, non credo che ne valga la pena, cioè che sia proprio il caso di fare, se proprio non ci vuoi entrare, non ci entrare e basta, però quando io ho avuto modo di parlarci con diversi radioamatori, tu lo sai, da me viene chiunque già, tu lo sai, fare via da me viene gente di ogni genere, sia patentati e sia CB, e dunque ne abbiamo modo di parlarci, no? di certe cose. Però certe persone sinceramente sembrano che abbiano chissà cosa per avere la patente radioamatore, ma io sono contento che ce l'hai, però tu non puoi rinnegare quello che non ho io, ad esempio, cioè la passione per la 27, o meglio quello che ho io, la passione per la 27 e non ho la patente, tutto lì. Ecco, avanti Gianni Giaguaro. È positivo. Sì, no, è una bella cosa, è una bella cosa. Ma non è che la 27 a uno lo rende inferiore, c'entra nulla, fa ridere questa cosa, non c'entra niente, il resto, io non ho mai preso portante in vitamina, io non lo so, non sarà perché io sono molto leale, parto a tiro diretto, o sarà perché magari, non so, chiacchiero tranquillamente, ma non so manco cosa siano, ecco. E non la metterei manco al mio peggior nemico, assolutamente. Ma assolutamente, piuttosto preferisco entrare e dirgliene quattro, no? Anche se io, sinceramente, quando vedo un somaro lo lascio per la sua strada, anche perché pensando solo il fatto che penso che un somaro lo gratifica. Riprendi giù. Sì, in effetti è così. Quando uno è somaro, è somaro e basta, e allora che se ne rimanga con se stesso e senza andare a rompere le scatole agli altri, tutto lì. Avanti, doppio giù. Che sia l'altra la frequenza, interessante che tu abbia la passione per la radio. Appunto. che si può, non è che sale su un piedistallo lì e ci rimane in eterno, qualche volta devi anche scendere e dare credito anche agli altri, è tutto lì. Perché non lo sentivi Gianni a doppio giù? No, stavo ascoltando ma non ho sentito niente. Faccio detto, ma che fa a parlare col vuoto Giulio? No, probabilmente è una donna negativa per me, no. Non ho sentito niente. Sì, sono d'accordo con te, Giuliette, sono d'accordo con te, non c'è problema. Un somaro che pigia portante così rimarrà un somaro tutta la vita. Anzi, quelli si chiamano somari aerodinamici. Sei d'accordo, Giulio? Sì, infatti, alle volte sono anche esplosivi, esplode il cervello per conto proprio. Sì, no, Gianni non riesce a sentirlo perché sta andando a lavoro, a posto torre sta scendendo, capito? Si sta allontanando probabilmente, magari ci saranno delle zone dove lo sentirai di nuovo, adesso te lo rilancio. Vai Gianni, o più giù, non ti sentiva poc'anzi in quell'ultimo passaggio che hai fatto? Gianni, Giaguaro non ti sentiva, vai o più giù. Che veramente ne fa piacere parlarci, non tutto lì. Poi, vabbè, lasciamo perdere le teste di cocomero, quelle poverine le lasciamo nel loro brodo, non fanno eco, cioè non fanno testo, caro Giulio, ovvero i maleducati, gli ignoranti, i somari, come abbiamo detto, i somari aerodinamici, quelli vanno lasciati tutti nel loro brodo, solitamente si accoppiano, lavorano a due e mezzo, ma non fanno parte del nostro team, nota bene, noi siamo sempre quelle persone che chiacchieriamo con tutti, abbiamo molta espansione perché non rompiamo le scatole a nessuno, Giuliette. Te lo credo, non è nel mio costume e penso nemmeno nel tuo, appunto, e nemmeno di quello di Gianni lo più giù, ci mancherebbe altro, e tanti altri amici. Vabbè, poi naturalmente c'è sempre la pecora nera anche fra questa, ma quelle sono cose che a noi non ci interessano, le sopportiamo, facciamo finta di niente, sappiamo anche chi sono se per quello, non è un problema, ma non ce ne interessa più di tanto, guarda, non ce ne frega più di tanto, anche perché, ripeto, come ho detto poc'anzi, da me vengono tante persone e anche se a me può sfuggire una cosa, magari stai tranquillo che mi viene riferita, però io mi faccio sempre gli affari miei e non vado a riferirla a nessuno a mia volta, perché non sta bene, no, perché non devo fare ruffiano a nessuno, allo stesso tempo mi piace comportarmi da persona seria e basta, tutto lì, no, niente di particolare. Perciò io quando sento un discorso che magari può essere un po' trasgressivo nei confronti di qualcun altro, mi entra in uno e mi entra all'altro, non è che vado pure a riferire ma il tizio ha detto così, no, nessuno può dire questo nella maniera più assoluta. E però nonostante tutto diciamo che sono tutto di tutti. Avanti Gianni, non più giù. Ciao Gala, chi è che ha detto io? Non lo so, avanti. No, niente, solo lui voleva dire, basta. Oh, iaia, vabbè. Avanti ancora Gianni, non più giù. A nessuno, questo è scontato, non ci sono dubbi, figurati un po', poi non lo so, forse sì che faccio male, forse sì che faccio bene, io la penso così e così e torno da lì, ecco, niente di più. Avanti Gianni Giaguaro. È positivo. No, ma non ti preoccupare per i somari che hanno solo un'era lire, probabilmente rimarranno lì dove sono, non stiamo cercando nessuno come ben vedi, quindi questo è l'esempio lampante di chi non ha niente da fare, chi si ficca praticamente un dito nel canale anale, come dico io, fregatene, giù, a futidini, come dico io, la sacchere, a futidine, come si dice, linea dura basa, usa emmi. Ok, e noi siamo anche a Sassa, lui a futidini, non è un problema. Io sono uno di quelli, ci mancherebbe altro, figurati, io di sicuro, non per presunzione, ma sono sicuramente superiore a certi discorsi che magari sento, proprio perché non vado pure ad alimentare altre chiacchiere, eccetera, lo sa bene, non mi considererei allora una persona seria, siccome mi considero una persona seria, rimango nelle mie, rimango e non vado a mettere in zizzania e a creare malumori nella mente delle altre persone, ci mancherebbe altro, nella maniera più assoluta. Avanti già arrivo più lungo, sì, adesso. Va. Mi sono passato via l'anno scorso che tutti erano vicende al mare, là. Siamo ripreso questo, diciamo, triangolino d'estate che è rimasto ancora. Ok già. Continuo ad ascoltarti sempre molto bene, come sempre, problemi fra me e te non ce ne sono mai stati, né quando sei a casa né quando sei fuori, ti sento sempre nel migliore dei modi, dunque, meglio di così, va benissimo. Avanti, Giaguaro. Positivo. No, ma Giulio, vedi, non ho niente da dire nel discorso che hai fatto, sei stato molto corretto, rispettoso, educato, comunque, no. Cosa potrei dirti? il contrario, sei una persona che praticamente ti fa i fatti tuoi, che sono quelle persone che campano a vita, al contrario di chi non se li fa, che prima o poi trova qualcuno che gli spacca la testa in modo molto facile. E oggi esiste di tutto, quindi batta io, tutto lì. No, Giulio, sono perfettamente d'accordo con te. Uno quando ha deve risolverlo appunto direttamente, lo deve dire senza stare lì a girarla, in modo educato, ovviamente, e basta, tutto lì. Sinceramente, e lo ripeto, quando ho qualcosa con qualcuno io vado e glielo dico. Quando non gli dico più niente vuol dire che non ci voglio parlare, ma non ho niente con nessuno. Così risulta anche essere molto corretto. Io la vedo a questo modo. Ognuno è libero di fare quello che vuole, giusto Giulio? Beh, certamente, io questo ho sempre avuto questo modo di fare e soprattutto non lo dico mai in frequenza, penso poco che carattere ho io. Io al limite ho il numero di telefono di quasi tutti, se proprio devo dire qualcosa faccio il numero e lo dico, se quelli almeno posso chiarire e fare in modo che si chiarisca che anche la persona che contatto, proprio per evitare chiacchiere, perché non sta bene, nella mia frequenza io non mi permetto mai di apostrofare nessuno di fare certi discorsi nella maniera più assoluta. Se ho qualcosa con qualcuno, come ho sempre fatto, prendo il telefono, formo il numero e lo chiamo. Insomma, così mi hanno detto, cosa mi dici tu? E lui mi dirà sì o no, ho detto questo o questo, ecco, allora apprezzo anche io la persona per cui contatto, però parlare in frequenza e far vivere la gente, secondo me, non è proprio il caso, guarda, nella maniera più assoluta. Io rimango del parere e lo continuerò sempre a dire, che discutere in maniera civile è la cosa più bella che esista. Molte volte le persone fanno degli errori, no? Cioè, errori attribuiscono cose a gente che non c'entra nulla, e quello è un grande sbaglio, perché molte volte gli errori si pagano, tutto lì. E a volte diventa anche pesante la cosa. Comunque, a prescindere, come discutere civile è sempre una cosa bella, però ritorniamo sempre lì, Giulio, quando uno è un somaro aerodinamico non gli puoi parlare, rimarrà somaro con la carrozza in culo e bisogna darle un calcio e farlo ruotare attorno a quelle assi che macinavano il grano, te le ricordi Giulio? Ok, ma anche se avessi le possibilità fisiche per poterlo fare, io la scarpa non me la sporcherei a dargli un calcio in culo, perché sicuramente mi sporcherebbe la scarpa, cioè non gli do nemmeno quella soddisfazione, pensa un po' come sono fatto io. Ci mancherebbe altro, ti sembra che io vada a sforcarmi? No, nella maniera più assoluta. E devo dire che ancora me la sento abbastanza con tante persone, e dunque potrei anche affrontare in diverso modo, ma io non sono fatto così, io sono fatto per il dialogo e per la chiarezza di entrambi, in modo che uno gli possa dire tu sei un deficiente, non lo possa dire di persona direttamente, in modo che lui in qualche maniera con la sua autorità riesca a capire tutto lì. Vediamo se Gianni è arrivato al punto prossimo. Gianni? No, sono fermo giù, mi sto pippando una sigaretta. Ho capito già, vabbè. Ma Gianni, non ti ho più visto da Davide, non ti ho più Pesciolini? Gianni o più lui? Scusami giù che mi stavo chiedendo un'informazione. Ah, vabbè, riprendi Giaguaro. Positivo. Tutto lì giù. Tutto lì. Bene, ci siamo fatti quattro chiacchiere. Mo' di saluto. Come si dice, mo' di mollo. Te lascia là ai tuoi lavori. A Gianni lo saluto, buon lavoro lo stesso. Ecco, ci risentiamo, la ripetata non lo so. Adesso qui ho quasi terminato e poi via verso terre straniere, come in Tenoveo. Ciao Giulia, grazie ancora per la chiacchierata, ci risentiamo. Stammi bene, ciao Gianni, doppio rum, a te giù. Ok, ciao, ciao Gian, grazie anche a te per la chiacchierata. È stato un dialogo abbastanza piacevole, alle prossime, speriamo di ascoltarci presto, Gian. Avanti Gianni Lupionù. Ciao Gian, mi sentito e state cose belle, buona continuazione sera. Vai vai, ci sentiamo. Ciao Giulie, sempre in gamba. Salutami a Rita il marito se li senti, che sono un sacco di tempo che non riesco ad ascoltarli. Fammi questa cortesia, giù. E chi è Rita e il marito, mi hai detto? Il camionista e la signora. Anche ai bambini un bacione, se li vedi fai la cortesia. Ok? Ok, d'accordo, già, senz'altro. Farò senz'altro la maciata, non ci sono dubbi. Ok, avanti Gianni Lupio giù. Ciao Gianni Giaguaro, ciao ancora. Ciao, avanti Gianni Lupio giù. Io sto facendo un po' di orario perché è ancora presto. Andare prima non fa. Niente, sono fermo 5 minuti qua, ma so come mi stai ascoltando. Sono fermo qui a Monterrey. Ti sto ascoltando bene, benissimo, le radio già, non ci sono problemi. Non se ne sono mai stati, dunque non vedo perché ce ne debbano essere adesso, in questo momento, nella maniera più assoluta. È un tragitto quello tra me e te che, diciamo, senza interruzioni, ecco, va sempre bene, in qualsiasi zona dove ti trovi, in qualsiasi posizione, va sempre bene, non ci sono problemi, ti ascolto sempre. Adesso mi sto mettendo in moto perché mi sto facendo le 5:15, piano piano vado e devo fare questa commissioncina veloce veloce, poi me ne vado a volo. E allora dico, come mai tutto questo tempo siete entrati? Facendo il baracchino non c'è nessuno, che cosa c'è, sono qualche volta, ma ho trovato gente e dunque evidentemente la gente al mare e non sta pensando al baracchino, tutto lì. Sicuramente molto meglio lì in spiaggia, non ci sono dubbi, perciò tanto è vero, parte della famiglia è andata al mare, ma penso che tanto molto rientreranno, sì che dovrò anche abbandonare, farò molto, vabbè comunque, tu sai, per arrivare sul posto di lavoro, non c'è tempo anche a salutarti, quando arrivi al negozio, non ci sono dubbi. Certo già, soprattutto la sera è molto bello andare lì a passeggiare, prendere un po' di fresco, eccetera, eccetera. Le giornate ideali, le giornate come oggi sono l'ideale secondo me. Addirittura migliori di quelli appunto di quei giorni scorsi che c'era la temperatura a 40 gradi con un di umidità altissimo, mentre oggi invece diciamo c'è meno temperatura e la giornata molto bella e piacevolissima, insomma, ecco. Anche se ci sono 27 gradi, dai, 27 gradi e mezzo, non è che sia molto alta la temperatura, però... Infatti non è molto alta, ma si sta molto bene. Vediamo quanti watt ne faranno, che sta parecchio. Pochi watt, vabbè. 9 watt mi stava dando, perlomeno se lo smetto è giusto o il watt mi trovo giusto, 9 watt mi sta dando. Poi va facendo abbastanza bene, abbastanza forte anche come microfonia, se è abbastanza forte. Ok, già va bene così, non è un problema. Beh, guarda che sono già... Ce l'ho fatto scaldare, ho fatto un po' di recupero, sì che non lo duavo, ho fatto un po' di recupero oggi. Cosa stai usando con la baracchino? Galaxy secondo, come lo vuoi chiamare, Galaxy 2 comunque, sempre quello. Ciao, se ti chiedono di più, mi piace più il garage come timbri, come modulazione, che quando usi l'altro, quello un po' più sofisticato, là. Certo, certo, indubbiamente. Non ci sono dubbi, già, non ci sono dubbi, è un bel apparato. Ah, diciamo questo chiarino è da quelli di d'accordo. Però tutto l'incontro sono uguale, a parte questo servizio, tu ne hai due sul Galaxy Saturno, come cosa un pezzo che sia uguale, all'incontro è uguale, un pezzo a minestra. Adesso stiamo per partire, a buon orba. Macchine sono anche qua vicino. A Chiesi fanno festa bella. Dove, a Chiesi? Eia, a Chiesi è una festa veramente bella. Ho capito, che festa è questa di Chiesi? È le Marisono, è Marisono. Parole, lo so, ce n'è che usini, però... Abbiamo scelto Bonorba perché diciamo che è la meno battuta, quindi oggi e domani sarà una cosa di flu, tanto è vero che siamo anche in ritardo. Ah, non capito. E infatti, adesso è l'ora proprio, ma di solito in questi paesi così fanno anche pranzo, capito, per tutti. Negativo, stasera a Bonorba ci sarà il vitello arrosto, però stasera, quindi inizierà la festa, adesso ci sono i negozi ancora aperti, diciamo che iniziano a uscire verso le 7:30, capito? Ah, ecco, un anno sono andato lì a Bangari, anche lì hanno fatto il pranzo e c'era poco di roba. E a Itti che lo fanno pure, e insomma in parecchi posti è, per cui nei paesi ci tengono a queste feste così. Lo so, si spendono l'animaccia anche per fare i fuochi artificio e tutta una serie di cose, assolutamente sì, ma poi perché si alternano queste specie di confraternite o di prolocco, quindi devono dimostrare di essere più bravi di quelli dell'anno prima, capito? È il solito padrone, infatti. Però stanno andando e calando, prima era sempre più forte la festa, mentre che adesso magari sta andando e calando perché la gente non mette più soldi, capite? Ma io mi ricordo da ragazzina, anche grano mettevano, mettevano anche grano e per cui insomma ritiravano tutto quello che gli davano e per cui dopo facevano questi pranzi, questi ceni così, ma forte però Vabbè, il problema è che questa qua è una cartina attorno a soldi, come non ci sono più soldi, capito? Mi fa capire che le amministrazioni comunali non hanno più la stessa liquidità che avevano prima, quindi non possono dare contributi, tanto è vero che stavano passando a vendere biglietti per la lotteria. E buscare qualcosa, sai, è vero, già. Tempi brutti sono, tempi critici per cui i soldi non ce ne sono e per cui le feste le stanno in parecchi posti abbandonando, per cui però già ce ne sono ancora che ci tengono veramente, per cui qualche cosa di buono io sei sempre. No, ti ripeto, eravamo indecisi se andare a Usini lo stesso, che ci doveva essere un bel po' di gente, però non sarebbe stato l'ideale, perché ci sarebbero stati troppi ambulanti, quindi sai, quando la torta è quella, più persone ci sono e più la fettina della torta esce fine, quindi conviene andare sempre dove ci sono più persone, meno ambulanti, meno concorrenza. Certo, infatti, perché il lavoro è quello che è, per cui bisogna trovare sempre il punto giusto, così che adesso dovete andare là, per cui proprio l'ora sono già le 6:20, per cui comincia a essere anche, va bene, la festa è tutta la sera, fino a tarda notte, si sa cosa tutto ci sarà lì a Buonorma. Ah, io ho tagliato un pochettino, ma no, io volevo salutare stasera, stasera. Beh, Tony, in compagnia mia di Gio Maria, che ti rilancio avanti. Gio Maria, per Antonio mi dovete scusare perché io, proprio perché mi hai detto l'orario, ma ne sono reso conto, Gio Maria, devo scappare, forse anche di più, capito? Che fatto? Poi prossimamente sarà allora. Va benissimo, ha fatto il piacere di aver sentito, dai. Avanti, entri. Avanti, l'altro amico che non l'ho riconosciuto io. Sì, perché sono vicino, ma insomma. Francesco? Antonio Palchetto, una sera Gio Maria dopo la marea, ben riascoltato. Faccio, tu ya. Sto perdendo già la memoria delle modulazioni. E vabbè, fa sempre piacere ogni tanto, quando si può, bisogna affacciarsi, e per cui un saluto fa sempre piacere, capito tu? Ben risentito, dai. Sentivo Gio Maria, dai. Il piacere è stato mio anche. Ciao Antonio, buon tutto, dai, ci si riascolta Antonio Grove. Io vi lascio, ciao. Ciao, buon proseguimento. Allora, cosa ci racconti di bello? Lavorando, sì? Grazie a Dio, sempre positivamente, sì, dai. Ecco, quello vuol dire molto, che ci sia, se no, perché c'è troppa gente ferma e uno che ce l'ha se lo deve tenere conto. Va benissimo, Antonio. Bene. E allora? E allora, siamo qua. Sto andando giusto a fare una commissione urgente e poi magari a riprendere il radio. Dai, datemi un attimino che c'è la pattuglia davanti. Sentiamo dopo, dai. D'accordo. Vabbè, adesso sono in ascolto, dai. Ciao. Ciao. Pellegrino. Già mattino, ogni tanto ti svegli, ma se fa dormire tanto sì. No, mi metto qualcosa di dosa, sa me abbandonare la televisione. Cazzo, ma se fai dare il centro visore perché... no, che tu fai il centro visore, c'è partito, grazie. Dopo il telegiornale c'era l'altra trasmissione. E poi c'era un film di quando hanno cominciato a volare sullo spazio, era vicenda spaziale. Insomma, era ben documentato, che un film, no? Però oggi ti dici lo fai nella gestionato. Sono arrivati dove è rimasto il primo uomo sulla luna e nella gestionato. Se no finiamo. Dino che siamo perdendo il terzo, il canale 3. Però io sono abbandonato qui sì, lo ho compreso, ma di cosa si tratta, capito? A chi era cucente, io gli farò qui un buco e fa vedere. E allora, tutto bene? In immenita, hai visto che quando la da fatta, a parte entrare io va via, la visita, che si imbecille, mi dici io lo... proprio il giorno che ci avevo la visita. Se ho visitato già prima d'anno, che mi ha avvisato quando sono andato. Ma di solito deve andare dall'altra parte all'altro padiglione perché lei ha le patenti speciali. Ma di me già lo so perché non ho visto che ho le patenti speciali. Allora ti ho dato a fare l'altro giorno la patente, l'ha voluta. Gliel'ho data, non l'ha visto lei. Ma lì la deve fare nell'altro padiglione. Cazzo, mica mi si manda da all'esterno là, aveva una superficie. E trivi, mi dice, mi dice venga domani, vira a lungo, vira i 40 bassoni. Mi ha dato la superficie, allora ti mi dice, ma dice venga domani, ma fino a presto. E vabbè, e me ne sono andato. Lì non mi ha mandato un altro, chi è? Il terzo, anche per la gente. E se mi ha dato un curio, deve fare il versamento così e così. Io ho avuto il certificato, avevo fatto del diabetologo, il certificato come sono invalido, o proprio di che grado di invalidità ciò. E tutto l'altro. E dice, faccio questi versamenti e adesso che andiamo a distanza. Il 30 novembre, la distanza il 13 settembre me l'ha fatta. Si tenga quel foglio che c'è, il 30 novembre ci vediamo. Ah, ma di tu, faccio il versamento, la distanza dovevo fare, li ho fatti io, perché io non li visitava. E dice, ma questo non va, cosa vuol dire non vanno bene? Se mi stai dicendo che devo fare passare sul 24 di 29 vivo, uno di non più, e allora porti quelli quando viene il 30, non vuoi. E va bene. Ah, e lì va giornata pure, lo voglio dare un diabetolo. A ti piace? Ma dice, l'ho fatto l'altro giorno. E allora, però quando vieni devi portarmi la giornata. E vado a andare, ciao voi. La dicuccia è già paziente, grazie. Beh, è strano, bro, è strano veramente, perché, vabbè, tu sei in questa in quella categoria per il fatto del diabete. Capire ci hanno uscito questa volta tutte queste cose, boh, non lo so, è tutto diverso, però non lo so, per me non ci sono. Io 4 anni fa, quando l'ho fatto la De Montis, io avevo la C e l'ho detto, tanto io la C non me ne faccio, ho detto, tu guarda, a me mi c'è solo la B. Però l'ho fatto anche perché mi toccava andare a fare i tempi di reazione e non volevo abbassare il tempo, tanto di tu a guidare Lugano non mi interessa più, per cui tu mi basta solo la B. E allora va bene, cioè, mettiamo la B e basta, e infatti ti balla due, tutti in una via ti ho fatto. Ah, cosa cazzo, bulle, te la sei la manica di macchina, se la giudici, guarda che io me la vorrei declassare la patente, ecco perché sono andato là, pure là, là. Quando ho dato la patente me lo potevano dire dal giorno, invece me l'ha detto proprio oggi che dovevo fare la visita, che non me ne facevano vado e mi hanno mandato qua. Dunque le problema c'è, io me la vorrei declassare, allora mi ha rifiutato, e non lo vedo io se è da declassare, che cosa le faccio e cosa le declasso. Lei dice, ma mi scusi, se sono di pensione, non trovo subito la maglia, non me ne posso tutti che parte. Quando viene il 30 già lo vedo io, cazzate bianchi. Ah beh, Baricetta, una campana. Non si è mai sa che uno dica una cosa del genere. Se io non la voglio, voglio assolvare, l'albero va per tutta delle vita. Eppure se è sano, ripeto, è una persona sbagliata, che è ignorante in queste cose. E anche se no, sano proprio, non lo so, grazie, Dice Marco, dice che aggiornava, è un ex autista dell'ARS, e deve essere, se la ricostruzione mamma di anno, lo gioco e c'era lì per sacca dei ghibi, non è qui. E dice, vabbè, ma non so, se ridere o piangere, basta scherzare. Scusi, se gli ho detto che mi hanno preso scusate in varietà al 100%, cosa me ne faccio io? E poi lega per il motivo anche perché sono pensionato al 100%, c'è scritto, sì, però quello lo devo vedere io, cosa devo declassare. No, ma mi scusi, che non devo regalare i soldi allo Stato io, se non me ne posso usare, dice Matti. Lo vedo io, mi sa con tu pure. La prima volta che sento una ragione del genere, sembra strano proprio, Vabbè, grazie, io forse magari tu perché sai quel certificato del dietologo, forse ma non mi sembra anche giusto che dicano una cosa del genere, non lo so, Perché se io non la voglio, la patente è grande, voglio la B, me la devo dare per forza, perché io chiedo a tutti, allora quello non mi interessa, no? E mi interessa solo la B, basta. Ma se la gente, ma mi scusi, lì c'è scritto che non posso più lavorare, l'ho letto, l'ho visto, quello lì già lo vedo io pure, mi ha detto, ah mi scusi adesso, no, non per allungare la cosa, per fargli perdere tempo la gente, già ci sono solo altre persone, non si spaventa, e perché lo dice lui, fra poco lo vede la gente, a me, ma io sto chiedendo un'informazione, e lì me lo deve dire. No, avrà da dare una risposta. Se adesso gli dico questo, per quanto ne so io la giudizio, per le varietà che ci ho io, lei a me mi deve dare la B e la speciale, non solo, mi pare che ogni 2 anni devo fare la visita, e rinnovo sempre, però perlomeno come so io, gli ho detto, come mi hanno detto. Perché io ho il grado di invalidità al 100%. Quello lo vedrò io cosa devo fare. Così vabbè, ci vediamo il 30. Tanto mi sa cultura, ma... Allora io devo assicurare cultura, la razza, che devo essere malato di capo, se è brutto e male il culo. Voglio stare sceso direttamente alla motorizzazione, cazzo io avrei chiesto al direttore l'informazione così direttamente, a vedere se tutto questi, devono fare tutti questi giri, eccetera, eccetera. Mi sembra un po' strano, grazie. Mi sembra un po' strano. Certo, si buttare da una bassa all'altra, ragazzi, non lo so io. Io se fosse stato senso alla motorizzazione avrei parlato con il direttore, io mi trovo in queste posizioni, così e così e così. Cosa devo fare? certo, questi vi dico così e così e così, ma è così o non è così? Ecco. Ah, sai, la Giuditta, ma se a me mi scade il 13 questo Puglio, cosa vuol dire? Che devo venire il 30, non per andare a rinnovarlo, vabbè. La giustificazione ce l'hai lì su Matti. La Giuditta, va bene, non so se vale come una giustificazione per la polizia, della Maripa. E basta che vada a piano e stia attento. Cazzo, che ci Matti. A me mi infatti mi hanno rilasciato questo foglio che sono in attesa del bollino di attaccare sulla patente, capito? Per cui è certificato provvisorio finché non arriva il bollino, capito? Dopo che arriva il bollino l'attacco alla patente e il foglio posso anche strappare. Mi dice che si è proprio sonato, grazie, mi sembra che così proprio, come stai dicendo tu? Se la dici, guarda, ho pensato anche le fotografie, guardi quelle che vanno bene, sarete o no, non mi lasci niente qua, sicuramente vi ha tutto. La dici, ma già è valido questo fuoco, e lei non si preoccupi, già è valido, non prende il timbre, ne è un cazzo, e lo voglio dell'elenco di versamenti che devi fare, scritto. E già scritta appena la devi andare, la firmate tu. Boh, ecco, la firmato. E cosa avevo scritto di questo foglio? È l'elenco dei documenti che devi fare. C'è scritto Ministero dei Trasporti, ASL numero 1, Sassari. E buh, ci ha messo la data e la firma. E la data quando devo fare la visita. Timbro messo là? No, non prende il timbro. Valerà l'intestazione del Puglio, già ne so. È una fotocopia tutta blu, mezzo illeggibile. Io non me la guidando. Vabbè, magari anche se scade non succede niente, perché a parte di un particolare, no? Quando mi è messo il tizio, qui si è messo il tizio, quindi tu sai, a me mi scadeva la patente l'8 di agosto. Così che io mi era preoccupante, no? Ecco, cazzo, se mi cade io non posso farlo, non qua la battito all'ospedale. E allora la vista mia a Maienna ha detto andare a formarsi. Cosa voglia fare? Anche se scade, siccome lei è giustificato che è in ospedale, per cui non può venire alla visita, per cui lo può rinnovare quando ne esce. Così l'hanno detto, ma non lo so io. Però intanto io con busso sono salito a Ivaro Grattacielo. Dice, cosa c'è? Otto rinnovo. Vabbè, ha fatto tutto quanto, ha fatto la lavagna. Ha mandato fuori il provvisorio, dice, questo vale per 40 giorni, se non dovesse arrivare entro 40 giorni, c'è il numero verde, da serie a questo numero, perché non è ancora arrivato, capito? È così che, per cui, io sto tranquillo, ecco, vedi come rinnovo. Ma se l'ha giusto, ma ascolti, quando io... Adesso ti arrestano gli omari. Meno, andavo, mi davano un muro, e si prendevano nome e cognome, se lo scrivevano lì e mi davano il muro già compilato da essi. Mi dice aggiunga solo il nome, faccia questo versamento e venga fra una settimana, me lo scrivia anche su mezzo di bambino a fare la visita. Andati a fare la visita e mia moglie mi dice al dottore, ma te fra veramente 30 giorni di arrivare il bollino a casa, sta a posto. Blu e me ne andassi, tutto va. Sabe, ma arrivi a casa e me la attaccavo la parte. Cazzo, già me ne arrivato a fare il massiccio. C'è qualcuno che vorrebbe entrare avanti? Vai fatti, nonno. Boh, prima è fatti per dire così, ma te. Fatti, grazie, già perché io. Che non è magari prima tu non eri diabetico, per cui magari che non c'è, ma non credo, mi sembra che c'è una cazzata quello lì, non lo so, grazie a Io ripeto, se recente mi sarei formato per il sicuro, capito? Perché forse magari per uno che è invalido, no, ci sono tutti questi giri, non lo so, ma mi sarei informato per essere più tranquillo, capito? Va bene, va. Hai detto quando vado non me la posso di fare a casa, mi fai male già per la che fare la pasta in testa buio. Cazzo, dico mi, questo foglio mi ha dato, mi ha messo la data la firma quando vado a fare la visita. Per il sicuro mi sono fatto informare perché io non potevo andarci a vedere un po' come mi dovevo comportare e già è stato così. Io invece quel periodo me ne sono potuto andare e sono andato personalmente e già non è, però per te è già un'altra cosa, ecco, invece sia perché c'è il fatto della diabete, ma beh, mi sembra che quella persona che tu che ti sta facendo così lo vedrà lui, mi sembra che quella è una cosa, non lo so a parlare in quel modo. Cosa vuoi dire io? Cazzo, si parli a un cane, ma che trovi a travagliare? Chi si lui per andare prima di me? Ma che trovi la mia cura con quel che vuole il male? E dico, cazzo, cosa veloce? Perché io mi sono gatti, poi tutto isolato, qualche periodo lo conosco, faccio per la autista all'arte. Chi sa la macchina se la ricostruivi? Imbraghezza, tutte quelle persone che vanno lì, imbraghezza che sta così e là, tutta gente manca, tutti girano la bionda, tutti vivono in camice, guazze sembrano, girano la bionda, chi dà se scemi, sta vedendo il cortile, che è proprio vent'anni, mi pare proprio il chiudo, se li guarda, invece di... Mi troppo già sta travagliando, a te via. E non so controllare, fanno quello che vogliono, però lo stupendo già lo pretendere, cazzo, non che fate il travaglio come ci pensate che fanno. Non fate il campo di azienda, capito? E io metto in via azienda, a chi non ci sono controlli, c'è gente invece vuole controllare e chi so... Mi sono pure di dire, no, travagliami e da voi morrugliete le burri, lo so pagati per, capito? Se la di chi sono andato la di prima, ma di chi non si prende il numero la di, se la di prendere il numero, se non prende il numero, e allora ne la di avvocate, cazzo, a dire se mi mandano la di avvocate, la stessa macchinetta di numero, a te piace. La cavaliere va a fare come la Cisugno alle persone che riconosce lui eccetera eccetera, capito? E poi gli dice guarda sente chi si offende le cose non deve rifare. No, vero cartello è scritto, se non bisogna muovere andare a finire un po' che balauri. Ma non fate, non solo che si vale il numero, già per scritto pure in mano io. E però se vanno per sempre un paese, pigliasse il numero, fate il suo travaglio, si facciano chi si, 10, 15, 15 e alle finite di travaglia. Se la spiega, poi te ne candugiamo le se figure già sull'orario, no? Hai capito il giochetto come? Ecco, e insomma, ogni maniera di mi vede, mica per se ne intende le cose, paccarizzare che... Ma... cosa ci dica, grazie? Che attaccando a che subirio, grazie? Ho un giochio. Oh, è stupido, io non me l'ho guidato, dice che da voi magari mi scappia e non possia, se non posso guidare, me la continuo a tacciare per un verbale, catta, se quella patente è scaduta, ma può fare di sì, me la contravvenzione e non avevo idea giù. Boh, e la faccio un foglio filmato dai, a me non me la appunto, se mi prendo di qui. Vede qui, hanno messo la data e ha fermato questo signore qua, anzi glielo scrivo anche, e ha su croce capi pigli, su un altro, e non so di niente. E a me mi ha fatto questo foglio, c'è la data e la firma, ma dice, da uscita da novembre, dunque, cazzo, a digerire, ci vuole digerire, ma non mi ha rifatto più. Intanto si fa di rimetterci tempo, capito come la patente? La gente va a mettere in giornata, grazie a... Speriamo che non sia così, che sia tutto regolare. Beh, a questo punto per investare tante cose, no? O no? No, già c'è l'intestazione, anche se una fotocopia, già c'è scritto Ministero dei Trasporti Pubblici, eccetera, eccetera, Stato italiano, però è una fotocopia, ma a me non me la sottinta, c'è stato un coglione passato, che mi dice cosa, va al manicomio che la conosciamo che me la dà più una cazzo. Ma, bravo. Speriamo bene allora, va. Speriamo bene allora. E stavo dicendo. E beh, è la signorina. Mi danno entrata qui a rimane, no, il nostro rimane, si ha chiamato la camera da letto. E Nuva e Paoletta l'ha aiutata a Mizzallo, Rubicio, appena Nuva, Puilli, ed è stata sconvolta. Ed è lì da prendere un po' di compagnia che sura. Ma però oggi non ha di brutto rana, strano. Allora se la aveva tutti e due liberi, o due palloncini, gonfi. Ma non se la va che passigliano, che si è gonfiato anche bene, perché anche a mia moglie succede questo particolare, sta prendendo un tipo di pastiglia che gli stanno gonfiando i piedi. Ma parloci davvero, però. Poi mi sembra, già lo sai che lei aveva un difetto di quelle dei piedi. E infatti sta prendendo questa pastiglia e il medico l'ha detto, dice, finché non va a fare un'altra visita da un'altra dottoressa, la prendo, dice, no, poi eventualmente dice non la prende più. E so che c'è Bastigli, io non c'era anche Bastigli che sta prendendo, grazie. No, Anna mi ha detto che era la diabete, gli ha rubato il culo a essa. Infatti mio nonno se lo sa mai. Era mezzo gonfio, adesso uno è un po' gonfio, quello sinistro. Speriamo non si continui a punta, boh. Mi sono detto che... E le diabete poi non sono tutti uguali, c'è quella più leggera, c'è quella media, c'è quella normale, capito? No, a mia moglie fa quell'effetto con la pastiglia, ce li gonfia i piedi. Gli altri li ha sempre gonfi, e la perchiana, però adesso con questa pastiglia li stanno gonfiando di più, capito? Perché te lo stavo dicendo così, capito? Che non c'è una pastiglia che tu stai prendendo e allora ti si gonfiano i piedi. Non lo so, non sono tutti uguali, capito? E mia moglie non è diabetica. Ciao, demonio. Ma le pastiglie sono sempre le solite che prendo, capi? Ma adesso provo a passarmi un po' di insulina, vedete. A Chiava ne sono occupando sempre di più, perché in base alla glicemia aumento, capi? Insomma, ti mandi giù isso. Vabbè, Giovanni, aspetta che rientro fra un po', che hanno scolato. D'accordo, già sono qua. Buonasera, Cla, mi hai sentito. E allora, Cla? E allora, combattendo sempre. Sempre combattendo. Ero al barbiere. Sono andato adesso, non ce la vai, mamma da Ruccia. Sono entrato alle 3 oggi. E domani in bocca d'ora. E quindi mi sono riposato, sono andato al barbiere alle 5. Sono tornato là. Adesso ci mettiamo un po' in sesto e poi vedremo cosa va, se andrà a farti in diretta oppure rimanerci a casa mia a ricordarci, Giovanni, con chi sei da solo? No, beh, ero con Graziano che stavo dicendo più o meno, e così, una chiacchieratina, tanto per ammazzare il tempo, era annoiata, anzi, stavo per scendere in campagna. Ma non ne ho voglia, non ne ho voglia perché ancora non mi sento tanto bene, specialmente oggi, mal di schiena. Forse perché ho sforzato un po' la mattina e fanno male i rigni. Allora mi sono bello seduto in poltrona qua, acceso il baracchino, prima c'era Antonio Grode, dopo Antonio ha chiuso. Stavo qui dentro del tratto Graziano, tutto lì, là. Grazie a Dio comunque gli esami stanno passando e purtroppo se faccio appena di sforzo non le devo fare, però che senza fare niente mi dà più fastidio, dopo il riesce più forte di me, allora fa che cos'è la faccio, dopo magari sento che c'è qualche cosa che ho fatto, ecco, tutto lì, là. Posso ringraziare di essere in piedi, dai, veramente, veramente lo so io. Comunque, tutto bene, grazie a Dio, per cui sta migliorando, dai, in giorno, col tempo. No, non passerà tutto come prima, però possiamo ringraziare, Cla. Infatti, neanche io la stessa cosa, no, a me mi fa sempre male, no? Non sto combinando un accidente, più che scrivendo non sto toccando niente, non sto dando una mano a nessuno, sono sempre l'impianto, l'impianto, girando a destra, a sinistra. Infatti me ne hanno affibbiato altri 5, giusto per impegnarmi un po' di più, capito? Però solo controlli di gestione, di bambino e bumi. Dove vedi, io purtroppo non posso fare niente. Forse è andata peggio a me, io c'ho il termine che è proprio lì per lì, capito? Quindi adesso bisogna vedere piano piano se si riprende. Dopo facevo ancora fisioterapia, due volte la settimana, di sera, adesso la sto facendo, mercoledì e venerdì. E mi sta parlando meglio ancora, e vabbè, io ho presa brutta, ma mi si è staccata completamente la spalla. Completamente, va bene. E comunque l'importante è che ci siamo, dai. Che ci siamo e si può discutere tutto il resto, piano piano. Comunque non ti puoi fare nulla tu. Lascia fare agli altri, Gian Maria, che sei più ragazzino. Lascia fare agli altri. Tua baita, non ti piace a baitare. Io mi sono abitato a baitare. Tua baita, lascia fare agli altri. Se puoi dare un consiglio, glielo vai. Però baita sempre tu, non sta a fare nulla. Perché è arrivato il momento di guardare adesso, capito? Non mi fare a fare, è arrivato un bel. E non riesco a essere fermo, non riesco a stare fermo. Qualche cosetta devo sempre fare. Ma adesso anche, per esempio, la roba, l'acqua, eccetera, abbiamo tutto in magazzino, no? E qualche volta ho provato, ma mi dà fastidio. Due le posso portare, ma un cartone di 6 bottiglie, no, assolutamente non ce la faccio. Ecco. Non mi posso nemmeno tirare a lasciarmi la scala, perché non puoi immaginare, mi devo per forza mettere sulla sedia il piede per poter lasciarmela. No, non ho fatto tanto facilmente, capito? Però ripeto, chi vuole il tempo suo e qualche cosetta e più forse me la fa fare, capito? Per certo magari pesante, non ho assolutamente. Ah, campagna, grazie ancora, se la vedi buone male mani in capo, ma che se ne frega, non mi interessa. Adesso prendo uno, me la faccio pulire, sono tranquillo, e lo guardo, e quello pulisce. Cosa posso fare altro? Solo guardare, infatti, come stavo dicendo. Certo, uno che lavora come sei tu, a avere quello che c'hai, non sa bene, per cui è giusto che tu guardi e lascia fare agli altri. Mi piace tantissimo, perché quello che io non è che mi piace non costare quello agli altri, c'è una linea di bella burivapore, mi sono messo proprio così, perché insomma sembrava che era un gioco a pulire i piedi della nostra oppressa, dove pressiamo i fanghi lì degli impianti. Tu hanno arrivato 10 minuti, hanno che vorrei che la faccia, io siamo Raibini, lascia a me. Ah, già, non mi sentivo più il braccio, eppure una lancia di quelle piccoline, acqua, mi capito? Mi stavo anche divertendo, però poi mi fanno il braccio, capito? Non c'è niente da fare, né allora niente. Sono seduto un attimino in ufficio a farmi un po' di cosette, anche domani mattina mi faccio un diretto, come non era sorso, ma quanto va il sorso, e c'ho anche sorso adesso, e poi me ne dentro a casa, voglio dire va. Cosa devo fare? Io, pazienza, è andata così e buon mese. E buh, adesso si arrangeranno, voglio che ti voglia. Va bene, Gian Maria, se coincide ci sentiamo dopo, mi ha fatto piacere averti ascoltato, guarda che ti stai rimettendo in forma, mi raccomando, bassa valla e trova i del buo a tutti i dini che ne hai fatto, io ancora ne ho da fare, mi dispiace, ma tu già ne hai fatto, quindi bassa valla a tutti i dini, con piacere che ti ho ascoltato, vai, se coincide Gian Maria mi sistema un pochino. E poi io sono qua in radio, sono qua in ascolto su Canal 10, saluto tutti quelli che sono in agguato. Ciao Gian Maria, presto, salutami anche il Graziano quando rientra. Ha cambiato tutto qua, a chi hanno fatto piacere, vai. Buon proseguimento di serata, ci risentiamo magari più tardi se coincide. Ok, ciao, vediamo un po' se è rientrato Graziano. Graziano? Salutiamo dopo, ciao Gian Maria, già sono in ascolto, comunque se rimanete qua vi ascolto volentieri, ciao. Ok, d'accordo, ciao. Ciao Maria, aspetta che tu mi ributi, se rimane sul canale appena se ne va, se ne devo andare subito, rientro. D'accordo, sono qua in ascolto, dai, tanto mi sto a guardare la televisione e ascolta. Sono in ascolto e ti saluta Claudio che ha fatto quel rischio, dai. D'accordo, io sono qua, grazie. Ricambiata il saluto, ok. Mi ha ritenuto già sul carrelli. Sì, l'ho sentito. D'accordo, sono in ascolto, dai. Ehi, yeah.